Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Gregori Piazzalunga. Oltre mezzo secolo di costumi e corsetteria. Di Anna Marino. Io mi sento, oltre che italiano, mi sento cittadino del Mediterraneo. Vivo in Italia. L'Italia è la portaerei più importante che c'è nel Mediterraneo. Si immagini il mio rapporto col mare. Io le vacanze, tanto per cominciare, le trascorro al mare, un po' in Italia e un po' all'estero. È vero, sembra un po' strano, uno dice faccio i costumi da bagno a Gallarate. E cosa vuol dire? Il costume da bagno è comunque un capo di abbigliamento, anche se serve per fare il bagno, però l'altra funzione è quella di far sentire una donna bellissima quando è in spiaggia. Quindi in pochi centimetri di tessuto dobbiamo riuscire come azienda a farla sentire bene, a ottenere dei complimenti dalle amiche, a farsi guardare oltretutto. Ecco, noi, pur vivendo a Gallarate, pur essendo lontano dal mare, comunque teniamo ben presente cosa vuol dire spogliarsi d'estate e vestirsi di un costume da bagno. Gregori Piazzalunga nasce a Gallarate, in provincia di Varese, nel 1951 e da sempre vive nella città natale. È presidente del gruppo Parà S.p.A., una delle più importanti realtà produttive nel settore dei costumi da bagno e dell'intimo a livello internazionale, ed è figlio dei fondatori dell'azienda, i coniugi Edda Paracchini e Giovanni Piazzalunga, che negli anni 50 iniziano proprio a Gallarate la loro avventura imprenditoriale con la produzione artigianale di pochi pezzi di corsetteria venduti nei mercati di piazza. Nel 1953 nasce Parà, dal suono esotico. Il marchio voleva ricalcare le prime lettere del cognome della fondatrice. La lettera H andrà per errore tipografico a sostituire la lettera K, voluta per riprodurre il suono della doppia C, e rimarrà in segno di portafortuna. Il nome è una cosa buffissima. Deriva dall'abbreviazione del cognome di mia mamma. Si chiamava Edda Paracchini, che è poi la fondatrice insieme a mio papà, dell'azienda. Quindi Paracchini, hanno deciso ai tempi i miei genitori di abbreviare il Paracchini e fare Parac. Solo che c'è una cosa molto buffa e tutti mi chiedono: ma come mai, se è scritto Parac con l'H finale senza la C, perché tu pronunci l'H? Perché in italiano non dovrebbe pronunciare l'H. A questa domanda rispondo: guarda, pronunciala o non pronunciarla è la stessa cosa, basta che il consumatore si abitui ad acquistare il nostro prodotto. Perché senza la C prima dell'H? Perché il tipografo si era sbagliato. Eravamo nel 1951 o 1950, insomma fine 50, primi 51, e nasceva questa aziendina proprio in una cantina. Il tipografo, anche lui, erano amici di famiglia, aveva già preparato tutta la carta intestata, tutto il packaging, e era arrivato in questo modo. Al che dice: guarda, se mi fate rifare il tutto mi mandate in rovina. Al che gli hanno fatto uno sconto i miei genitori e abbiamo detto va bene, lasciamolo in questo modo. E diciamo che ci ha portato fortuna, perché se non altro fa parlare questa H finale pronunciata o non pronunciata. Ecco, questa è la storia del marchio. Nei primi anni 60 il laboratorio artigianale assume la dimensione di una piccola impresa. Costituzione nel 1962 della prima vera e propria azienda a livello societario, a Gallarate, in provincia di Varese. Nel corso degli anni 60, Parà riconverte la produzione dall'intimo in costumi e coordinati mare, per i quali si affermerà negli anni 80 come uno dei marchi più conosciuti. Inizia a gestire una rete di distribuzione in proprio, costituita da una dozzina di agenti. Piazzalunga ricorda l'industriosità dei genitori. L'immagine è quella di grandi lavoratori, persone che avevano tanta voglia di fare, forse non avevano la cultura aziendale, allora non si usavano le parole marketing, ricerca, si usava facciamo questi prodotti per venderli, facciamoli bene. E diciamo che la cosa che mi hanno sempre trasmesso i miei genitori è sempre stata quella: è vero che facciamo questo lavoro per guadagnare dei soldi, per vivere, ma cerchiamo di non deludere mai le persone, cioè i consumatori, perché la chiave del successo è quella di, una volta ottenuto un cliente, quindi acquisito un consumatore, non deluderlo se vuoi che ritorni. L'azienda era nata come corsetteria, poi dopo qualche anno hanno visto, sempre i miei genitori, perché è stata una scelta loro, che forse nel costume avevano più marginalità e quindi hanno detto facciamo i costumi da bagno. Mi ricordo che allora i costumi erano, non erano in lycra, non c'erano questi tessuti leggerissimi, addirittura erano in filanca, era anche molto più difficile confezionarli, quindi mia mamma comunque, che era una brava modellista, insomma ci riusciva e ci riusciva molto bene. Nel 1975, con l'inserimento in azienda di Gregori Piazzalunga, seconda generazione della famiglia fondatrice, ha luogo una svolta nello sviluppo di Parà. Il giovane imprenditore intuisce la nascente richiesta di mercato per i costumi da bagno, segmento arretrato del settore abbigliamento, sviluppando le potenzialità di prodotto. Il suo ingresso in azienda, però, è volontario. Quando io ho finito la ragioneria, mi ero iscritto all'università. Dopo 2 mesi che cercavo di frequentare l'università la sera, intanto che ovviamente lavoravo in azienda, ho gettato la spugna per l'università e ho detto voglio veramente scommettere la mia vita, il mio futuro in questa azienda. Che mio padre cosa ha fatto? Ho detto questa qui è una scelta tua, benissimo, da oggi l'azienda la porti avanti tu. Si mette nei panni di un ragazzo di 19 anni che si trova sulle spalle una piccola azienda, perché allora erano 35-36 dipendenti, con tutto un progetto da portare avanti. È stato da una parte traumatico, perché insomma non avevo nessuna esperienza, o perlomeno avevo l'esperienza vissuta vedendo cosa avevano fatto fino ad ora i miei genitori, ma io intanto andavo a scuola. È vero che finita la scuola andavo in azienda, aiutavo a fare sui pacchi, a fare le spedizioni, aiutavo a fare i cartellini, perché allora non esisteva né computer né niente, si faceva tutto a mano. E mi hanno detto proprio vai avanti tu e fatti le esperienze, fai anche degli sbagli, ma attenzione, questi sbagli cerca di ricordarteli e portarli sempre in positivo. Gregori Piazzalunga ha assunto la carica di presidente del gruppo Parà S.P.A. subentrando alla madre Edda Paracchini, che dopo 56 anni a capo dell'azienda ha deciso di lasciare la carica a favore del figlio, già vicepresidente dal 1993. Ha avuto così inizio l'era della seconda generazione. La vicepresidenza è stata assunta da Stefano Rienzo, cognato di Gregori, che manterrà anche la carica di direttore commerciale, mentre il fratello, Gianluca Piazzalunga, è stato nominato consigliere delegato con l'incarico di gestire anche la logistica e la produzione. Oggi in Parà c'è già la terza generazione. Ecco perciò come si affronta dal punto di vista di Gregori Piazzalunga il passaggio generazionale in genere e in particolare nella sua azienda, segnato da coesione familiare, ma anche duro lavoro. Di regole non ce ne sono. Uno, qualsiasi lavoro deve sentirselo dentro. Io sono nato in mezzo ai rotoli di tessuto, in mezzo ai modelli, in mezzo, cioè i modelli vuol dire i cartamodelli di allora, in mezzo alle macchine da cucire, perché l'azienda era in casa praticamente, nello scantinato c'erano le macchinette da cucire con poche operaie. Vivendo lì io ho cominciato ad appassionarmi. Mi ricordo che da piccolo seguivo delle prove di sartoria, e la modella diceva a mia mamma ma tieni qui questo ragazzino di 5 anni, 6 anni a vedermi con un costume da bagno così in casa, e mia mamma diceva ma guarda che per lui è normalissimo, anzi io quando arrivava qualche modella diceva questa qui non va bene, è troppo al seno, troppo grosso e non è una 44, cioè quindi un po' l'occhio me lo sono fatto a 5 o 6 anni. Serve la voglia di fare, la voglia di crescere, la voglia di imparare. Io oggi ho quasi 60 anni e mi sento ancora nella posizione di quello che deve ancora imparare tantissime cose. Ma noi abbiamo inserito in azienda i miei figli, i figli di mia sorella, ma li abbiamo inseriti dopo che hanno passato un periodo di osservazione come, diciamo, stagisti in azienda. Quando i responsabili dei vari reparti dove li avevamo inseriti ci hanno detto sì, possono andare bene, allora abbiamo detto va bene, cominciamo a assumerli come apprendisti. Il passaggio alla terza generazione è avvenuto per merito, non per atto dovuto, perché la cosa più sbagliata è quella di dire mio figlio è bravissimo perché è mio figlio. No, mio figlio entra in azienda se lo merita, e devono addirittura dare un esempio sia di vita che di lavoro. Nella prima fase della sua carriera si occupa di vendere le collezioni. Successivamente la sua attenzione si focalizza sulle attività di marketing. Nel 76 il gruppo inizia a produrre nuove linee di costumi da bagno, sabbia, impronte e off-limits beachwear, raggiungendo tipologie diverse di consumatrici e coprendo tutti i segmenti di mercato. Per veicolare questo nuovo concetto, l'azienda realizza campagne pubblicitarie, primi ad utilizzare affissioni dai grandi formati, che rispecchiano i mutamenti sociali. Il desiderio di trasgressione dei primi anni 70, con la posizione da scandalo della prima testimonial del marchio Parà, Barbara D'Urso, e successivamente l'atteggiamento aggressivo e carrieristico degli anni 80. Da qui in poi si sono succedute diverse importanti testimonial di Parà. Gregori Piazzalunga ricorda così i suoi primi tempi in azienda. Non sono entrato per merito, ma sono entrato in azienda per una scommessa che ha fatto mio papà e ovviamente la vista, perché mio padre era una persona che vedeva molto lontano. Vinta questa scommessa, come? Scommettendo su una persona che ci credeva e non si accontentava mai di quello che stava facendo. A quei tempi andavano i costumi da bagno stampati. Avevo tanti concorrenti, io poi li progettavo in azienda, andavo io a comprare le stampe e mi ricordo che mi sono fatto una grossa esperienza anche di come fare le varianti colori e tutto, e poi andavo a vendere e mi sentivo dire dai commercianti ma la tale azienda dalla quale noi stiamo già comprando fa le stampe più belle, ma quelle altre, insomma c'era sempre qualche problema. Nonostante questo riuscivo comunque a vendere qualche cosa. Un bel giorno sono tornato e ho detto basta, io i costumi stampati non li faccio più. Voglio fare dei costumi tintunita con delle applicazioni insolite. Più che testimoni abbiamo scelto sempre delle belle donne, a volte conosciute e a volte no, proprio per esprimere quello che è la solarità, lo spirito mediterraneo di quello che vuole dimostrare Parac, insomma. Sul fronte del bilanciamento tra vita e lavoro, Gregori Piazzalunga ha una particolare ricetta da suggerire. Ha presente un bel minestrone o un buon minestrone. C'è un po' di lavoro, un po' di vita privata, un po' di hobby. Per me il lavoro diventa anche un dovere, perché attenzione, Parac ha 177-180 dipendenti. Crediamo che il successo di Parac sia dovuto anche e soprattutto a loro. Si possono avere le idee più belle del mondo, si possono avere tanti soldi, ma se non si hanno delle brave persone o dei bravi collaboratori che credono in questa causa, non si può ottenere nulla di buono. Nel 2008 Parà ha realizzato un fatturato di 30 milioni di euro, di cui il 75% nel mercato italiano. La produzione annuale si aggira su circa 1 milione di capi, che vengono distribuiti in oltre 3.000 punti vendita, tra Europa e il resto del mondo, nelle boutique monomarca di proprietà, ad oggi se ne contano 17, e in partnership, attualmente 15 in Italia e 27 all'estero. Ecco come Parà affronta la crisi. Questo momento di crisi, le cito una frase di Einstein scritta nel 54, che dice la crisi è un bene di Dio. Cioè per noi questo momento è stato uno stimolo a uscire un po' da quel piattume del quotidiano, e credo che ci siamo riusciti, perché se quest'anno facciamo un 2-3% in più di fatturato, un motivo c'è, insomma. In un momento di depressione noi siamo riusciti invece a esaltarci. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili al sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.